L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta che dedichiamo a Cinema Ambiente, la rassegna di film a tema ambientale che si è recentemente tenuta a Torino. È la 18ª edizione ed è stata davvero partecipata. Non mi aspettavo certo di dover fendere la folla per entrare in un cinema il sabato pomeriggio, un cinema in cui tra l'altro si proietta un documentario sullo scioglimento dei ghiacci. Comunque sia, l'edizione di quest'anno è stata spostata a ottobre per aderire alla manifestazione Nutrire le città del Comune di Torino, che si svolge ovviamente in sintonia con Expo 2015. E il nutrimento è stato tra l'altro uno dei temi chiave della edizione di quest'anno di Cinema Ambiente. Non a caso il film di apertura è stato quello del tedesco Valentin Thurn, 10 Billions, What's on Your Plate, e cioè quando saremo 10 miliardi, che cosa ci sarà nel piatto? Come sempre ci sono stati i concorsi, quello internazionale, quello italiano, quello chiamato One Hour per i film di durata di circa 60 minuti, poi la sezione Panorama che nasce dai festival internazionali, un'ampia selezione di cortometraggi ambientali e poi ad affiancare le proiezioni, gli eco talk, le chiacchierate con gli esperti, gli eco eventi sparsi in tutta la città e nei dintorni. Insomma, il programma è davvero ampio, in particolare è stato ampio quest'anno e ne abbiamo parlato con Gaetano Capizzi, fondatore e direttore di Cinema Ambiente. 18 anni fa era tutto diverso, era diverso il cinema ambientale, era diverso il livello di consapevolezza dei temi ambientali nel pubblico, per cui in questi quasi 20 anni è cambiato un po' tutto, no? Gli allarmi ambientali sono diventate delle realtà. Una volta si diceva può darsi che ci saranno i cambiamenti climatici, il consumo del suolo, eccetera. Oggi siamo dentro il problema, per cui i problemi si sono aggravati, si sono verificati e questa è una cosa negativa. La cosa positiva invece è che molta gente ha preso coscienza dell'importanza di questi problemi e la coscienza ambientale è diventata diffusa, un'idea comune tra le persone comuni, diciamo. E questo ha generato una cultura ambientale che si è riflessa anche nel cinema. I film sono diventati più spettacolari, sono diventate delle grandi produzioni e in questi anni il cinema ambiente è stato un po' il punto di riferimento di questo fenomeno in crescita, sia dal punto di vista negativo che positivo, come dicevo prima, per cui è cambiata completamente tutto. Da un piccolo festival frequentato da attivisti e ambientalisti è diventato un festival popolare in cui vengono le famiglie, i bambini e il grande pubblico, diciamo, a vedere dei documentari, sostanzialmente gli adulti a tematica ambientale, oppure a vedere anche i cartoni animati. Si diceva Piovono polpette, che è un film che parla di spreco alimentare, ad esempio, no? Facciamo capire ai bambini, insomma, che questo cibo che piove dal cielo, che è troppo zuccheroso, provoca l'invasione di rifiuti dell'isola, provoca l'ingrassamento della popolazione, eccetera, no? Per cui questo dimostra anche che i temi ambientali, oltre a essere affrontati dai documentari ambientalisti, stanno entrando anche nel cosiddetto mainstream, nei film di finzione hollywoodiani, nei cartoni animati, e questo è un segnale positivo di diffusione della cultura di attenzione verso l'ambiente. C'è forse in questi documentari, proprio parlo del documentario, ecco, non del film, un'evoluzione verso un messaggio finale positivo? Qualche anno fa avevamo soprattutto la catastrofe finale di saremo sommersi dalle acque, così. Adesso ho in mente un paio che ho visto di questa edizione, che c'è qualcosa che dice se facciamo questo però si può ottenere. Sì, anche chi li fa c'è un messaggio diverso. Una delle evoluzioni del film ambientalista, no? Del documentario ambientalista è stato proprio questo. C'è stato un primo periodo dei cosiddetti periodo a luci rosse, lo chiamano, del cinema documentario, in cui si lanciavano questi grandi allarmi, no? Catastrofici, appunto, che però lasciavano il pubblico annichilito. Cioè quando uscivi dal cinema ti sembrava che già tutto fosse successo, tu non potessi fare più niente per fermare la situazione, per cui non stimolava l'impegno. Da un certo momento in poi, soprattutto da un film ben preciso, no, che è Una scomoda verità di Al Gore, no? Cioè con Al Gore, che è stato il film che ha denunciato il fenomeno dei cambiamenti climatici, che è un fenomeno incredibile, disastroso, allarmante, eccetera. Però alla fine il film finiva con un decalogo di cose che tu spettatore potevi fare per evitare questa deriva, no? E da lì è nata tutta una nuova fase del cinema ambientale, che è quella, la fase di denuncia ma anche di indicazione di soluzioni, o addirittura film che prospettano nuovi modelli di vita, modi in cui tu puoi vivere, no? Cambiando un po' le tue abitudini. E spesso al film è associato un sito internet dove c'è il tasto take action e ti dà i consigli per diciamo gravare di meno verso quella specifica problematica che ha indicato il film magari. Un'altra tendenza direi è quella di girare documentari più vicini, cioè non in Bangladesh, in India, in posti lontani da noi dove lo spettatore comunque si sente diverso, specialmente se lo proiettiamo a Torino, insomma, ma nell'arrivare in Europa o negli Stati Uniti e girare e documentare quello che accade qui. Sì, sì, questo è vero, è anche vero che c'è questo principio che si dice pensare globalmente e agire localmente, no? Tradotto probabilmente. Hanno tradotto in questo modo, perché noi come città di Torino, siamo a Torino, possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo per emettere meno CO2. Ad esempio la città di Torino ha cambiato tutti i corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica con le luci a LED, no? E questo significa meno consumo energetico, meno emissioni di CO2. L'azienda dell'acqua, la Smart di Torino, ha installato dei distributori di acqua gasata, no? Che in un anno hanno fatto risparmiare circa 3 milioni di bottiglie di plastica, no? Per cui sono azioni locali che sono documentate da questi film, che però incidono sulla situazione globale. Per questo, insomma, i grandi problemi si risolvono anche con i piccoli passi delle singole amministrazioni, ma addirittura dei singoli cittadini o dei cosiddetti consumatori, che possono scegliere cosa consumare, ecco, e come consumare. Il concorso internazionale, che è quello dei documentari, che è, diciamo, il concorso principale in Italia, è stato vinto da un film che dà appunto delle indicazioni di vita diverse, che è appunto Bikes versus Cars, no? E questo giro del mondo sull'organizzazione urbanistica delle città, su come possono essere, diciamo, su come ci si può muovere in città. Allora riepiloghiamo insieme però tutti i vincitori del concorso 2015, facciamo i concorsi principali, saltiamo le menzioni d'onore per brevità. Come miglior documentario internazionale è stato scelto Bikes versus Car di Fredrik Gerten, un documentario svedese, bici contro auto come dice il titolo. Per il concorso documentari italiani Mare Carbone di Gianluca Rossi su un sito industriale inquinante e abbandonato in Puglia. Per il concorso internazionale One Hour ha vinto Saving Messinac di Brent Huffman, un film americano dedicato a un sito archeologico afghano da salvare perché per sua sfortuna sta sopra una miniera di rame acquistata da un gruppo cinese che ovviamente intende a questo punto fare il suo business. Nevina Satta guida la Fondazione Sardegna Film Commission ed è vicepresidente dell'Associazione Italia Film Commission. A Torino Cinema Ambiente faceva parte della giuria che ha scelto il documentario, il miglior documentario internazionale, e quindi le abbiamo chiesto quali sono stati i criteri con i quali hanno valutato e poi scelto. Per il concorso internazionale devo dire che la giuria è molto composita come sensibilità, quindi ciascuno di noi ha individuato da un lato rispetto alle proprie competenze anche all'area che rappresentiamo. Io in particolare rappresento il mondo delle film commission e della produzione, e quindi ci siamo sicuramente orientati nella verifica da un lato della qualità del film, no? Dal punto di vista estetico, dal punto di vista narrativo, la tenuta, della capacità di raccontare storie straordinarie varie tutte, devo dire una selezione davvero molto complessa, perché è una selezione che comunque come dire, crea una difficoltà di scelta. Ci sono personaggi straordinari, situazioni assolutamente complicate anche dal punto di vista del parere, no? Del punto di vista di chi racconta, e quindi costringono il pubblico ad un lavoro molto forte di come dire, prendere una posizione, capire da che parte stare, però senza dare risposte certe, ma analizzando i problemi molto profondamente. C'è anche, abbiamo anche voluto valorizzare, questo è stato un parametro condiviso, la capacità di un utilizzo innovativo del materiale d'archivio, che in alcuni casi è davvero straordinario, sorprendente, completamente inaspettato, e che ci ha anche, come dire, aiutato a pensare al modo di fare documentari, diciamo, più tradizionali, no? Come tipo di racconto, con una perfezione però formale davvero indiscutibile. E diciamo che il tema ambientale, poi ciascuna sensibilità lo gestisce da un lato come, come dire, lotta politica di una comunità per l'affermazione del proprio spazio di vita, in alcuni casi situazioni estremamente personali, dibattiti familiari, lotte e contestazioni che quasi infrangono, no? L'unione di una famiglia rispetto alla necessità di tutelare il patrimonio e quindi l'eredità anche simbolica ricevuta rispetto alla propria cultura, alla propria comunità. Questi sono stati dei temi ricorrenti che abbiamo trovato forti e che abbiamo anche in questo caso ritenuto importanti. Poi certamente c'è stata un'attenzione, per me questo è un tema molto importante, un'attenzione al pubblico. Crediamo che un festival come Cinema Ambiente abbia il grande dovere e potere di far conoscere al pubblico film che diciamo potrebbero avere difficoltà distributive. Allora, da questo punto di vista è stato, come dire, seguita anche un'attenzione, è sviluppata un'attenzione forte al prodotto che magari ha meno facilità di divulgazione, di distribuzione, quindi mettere l'accento con delicatezza, insomma, però su alcuni problemi può essere rafforzato grazie ad un festival come questo. Continuiamo tra pochissimo la conversazione con Nevina Satta, c'è una breve pausa. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati, stiamo parlando in questa puntata di Cinema Ambiente, rassegna di film a tema ambientale che si è recentemente tenuta a Torino con una 18ª edizione molto partecipata, che nel concorso internazionale ha premiato il documentario svedese Bike vs Car di Fredrik Gerten. Ci siamo lasciati poco fa parlando dei criteri che hanno ispirato la giuria nella scelta. Ora riprendiamo il discorso con Nevina Satta, che tra le altre cose guida la Fondazione Sardegna Film Commission, su un altro tema: quali nuovi strumenti possono essere utilizzati per parlare di ambiente? Hanno visto loro della giuria qualcosa di nuovo che vada oltre i soliti docufilm, che sono meravigliosi ma che dominano questo settore da molti anni e l'hanno fatto uscire, diciamo, dalla nicchia, ma non riescono a farlo crescere ulteriormente, non riescono a farlo arrivare capillarmente al pubblico? Beh, noi li stiamo creando, ma lo dico con grande modestia, anche se sembra che io sia, come dire, quasi presuntuosa, però di fatto le Film Commission, in particolare la Film Commission che io dirigo, che è la Film Commission della Regione Sardegna, sta investendo in un complesso progetto di ricerca che abbiamo sviluppato, manco a dirlo, con l'assessorato all'industria e con un centro di ricerca molto avanzato, attento alla ricerca sulle energie rinnovabili e sull'efficientamento energetico, e il progetto Heroes 2020, che è un tributo agli eroi della quotidianità che si occupano di salvaguardare il territorio, nel caso dell'isola a vari livelli, sia rispetto alla tutela rispetto all'inquinamento, piuttosto che il recupero appunto della biodiversità che in alcune aree rischia di scomparire, ma anche la valorizzazione di ciò che di famiglia in famiglia, di generazione in generazione è stata tramandata. Pensiamo alle tecniche costruttive, per esempio, esempio della terra cruda, che stanno vivendo grazie alla bioarchitettura adesso in Sardegna una, veramente una golden age, una, un recupero molto forte. Questo progetto che abbiamo avviato per realizzare serie web, cortometraggi e brevi documentari è nato proprio con questa stessa necessità, trovare un modo diverso per raggiungere generazioni che danno troppo per scontato il fatto che il cellulare possa sempre essere caricato, oltre a ad altre questioni che riguardano per esempio una visione un po' più lungimirante del rapporto tra il corpo e il mondo esterno. Pensiamo al tema della mobilità sostenibile, che viene sempre ridotto ad una lotta contro il petrolio, mentre ha molto a che fare con l'adozione di comportamenti molto più salutari. L'Italia è un paese che sta vivendo, come altri paesi occidentali, il problema dell'obesità infantile e non ha abbastanza strumenti. Allora, banalmente, la mobilità sostenibile può essere un concetto da riproporre. Per me poi ha molta importanza nel nostro studiare come pubbliche amministrazioni nuove strategie di finanziamento di nuove forme espressive, e quindi anche per esempio le serie web che possano avere un valore di documentario storico, però pensate per i più giovani e quindi contaminate con le graphic novel, con l'animazione. Questi sono tutti filoni di forte investimento economico e sperimentazione espressiva, perché si può arrivare a coinvolgere giovanissimi che magari non hanno neanche una casa di produzione, ma sono dei giovani illustratori o famosi blogger che potenzialmente hanno solo bisogno di trovare il giusto interlocutore per venire fuori nel mercato. Quindi storie, racconto di storie alla base, poi con appunto ognuno lo declinerà, però non è più tanto solo documentare, ma è inventare, creare una storia che porti a riflettere? Da sempre il documentario è un genere molto ibrido, nel senso che si può arrivare a raccontare le cosiddette best practice di cui tutti parlano, ma come pretesto quasi è una sorta di content placement, no? Uno può decidere di parlare di efficientamento energetico e di cappotto termico, che prima era quasi un concetto relegato alle pillole di Superquark, che invece può diventare una sorta di pretesto per far scatenare una commedia romantica o un horror. Ed era Nevina Satta, con la quale siamo andati un po' più in là del Festival Cinema Ambiente di Torino. Ora ci ritorniamo al Festival con Pasquale Verdicchio, anche lui della stessa giuria per i documentari internazionali, a nome e cognome italianissimi. Pasquale Verdicchio, ma da 30 anni è negli Stati Uniti, insegna a San Diego, insegna letteratura, cinema, cultural studies, environmental literature, quindi letteratura ambientale. Ci ha spiegato che cos'è l'ecocriticism. L'ecocriticism è un modo di dare presenza, cioè non so se riesco a farla in italiano perché la insegno un misto, dare presenza al mondo non umano all'interno dei prodotti culturali, non soltanto la letteratura, ma anche per esempio il cibo, la cucina, le tradizioni umane, e rapportarle al mondo esterno. Perché si agisce in un certo modo, cosa si mangia, perché tutte le procedure e le tradizioni che legate a quel tipo di attività. Nella letteratura ovviamente si ha a che fare con dei testi, romanzi, poesia, per tentare di estrarre un po' quella presenza che diamo per scontato e di solito non ce ne spieghiamo, non valutiamo. C'è anche un'altra disciplina, ecocinema, che è molto più recente. Le avrei chiesto proprio questo, perché appunto lei studia e insegna questo da quanto tempo? Saranno una decina d'anni che sono riuscito a proporre questo corso di environmental literature, però insegno anche cinema. Ecocriticism risale agli anni 80. Per esempio si rifà a scrittori come Gary Snyder, Thoreau, autori americani più che altro, una disciplina nata negli Stati Uniti, che però ormai è diventata globale. Poi c'è l'ecocinema, che è un termine coniato nel 2003, credo, che riprende la stessa attività all'interno del cinema. Per esempio un film come Avatar, come rappresenta la natura, un mondo esterno, un film, anche nei film di Antonioni, per esempio. Di solito leggiamo Antonioni come un commento sull'ambiente, l'Italia industrializzata, però se facciamo attenzione alle inquadrature vediamo che ci sono altri elementi che possiamo dire naturali, che non fanno parte del soggetto centrale ma esistono all'interno delle inquadrature stesse: alberi, piante, fiumi, laghi. Senta, avendo appunto studiato da tanto tempo questo, che tipo di evoluzione c'è stata nella rappresentazione della natura? Più che nella rappresentazione, nella presa di coscienza di questo, della presenza della natura, sì. Che pian piano si è passato da un tipo di lettura antropocentrica a potenzialmente una lettura biocentrica, dove l'uomo, l'umanità, fa parte di un sistema che possiamo dire naturale, problematico anche come termine, naturale, natura, però usiamolo in quel modo, capendo che di naturale c'è un cambiamento, c'è un'evoluzione. Esatto, sì, un'evoluzione è sempre una consapevolezza del nostro appartenere a un sistema completo. Quindi non c'era nei decenni passati e ora c'è una presa di coscienza che siamo parte di un tutto, quindi l'uomo forse fa un passettino indietro, c'è meno prepotenza forse. Sì, infatti, sì, un passo in avanti, un passo in avanti, sì. Nell'intendere il tutto l'ecosistema che comprende l'uomo, l'essere umano come parte di un sistema completo. E della coscienza della nostra attività, come abbiamo cambiato la natura e come natura ci ha anche cambiati. Uno scrittore come Gary Snyder parla di wilderness, che riprende da Thoreau, ma anche di wildness, che è wildness intraducibile perché è come l'essenza della vita. Per esempio wildness si potrebbe rappresentare come l'erba che cresce nei marciapiedi, che prende il sopravvento, sì, esce anche quando ci mentimizziamo, come si dice? Ci fichiamo. il mondo, che riesce a crescere una pianta, l'erba che riesce a andare oltre gli ostacoli che noi poniamo. La wildness. La wilderness, la foresta, poi anche quello è un concetto che varia da cultura a cultura. E ora che abbiamo scoperto cos'è l'ecocriticism e che sappiamo che sicuramente ha ispirato la scelta di Pasquale Verdicchio, che faceva parte della giuria per i documentari internazionali del Cinema Ambiente di Torino, ci dobbiamo salutare. Da Laura Bettini un ringraziamento per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.